I think that the biggest problem in society is that people stand very far away from. Penso che il più grande problema della società è che le persone siano l'una lontana dall'altra, mentre per risolvere i problemi dovremmo tutti riunirci e parlarci. L'arte per me è come un ponte per portare persone da un lato e dall'altro. Che cosa rappresenta il fantasma nella sua opera? It's a shadow, it's a ghost, it's a shadow of the past. È come un'ombra, un fantasma è un'ombra del passato. Il fantasma rappresenta il passato della ragazza che lei ha nascosto nella scatola e che non voleva venisse fuori e che era infestato dal fantasma. I was asked to create a work about children in this child service institution. Mi era stato chiesto di creare un lavoro sui bambini e sono stata ispirata dalla vita che i bambini vivono e dai loro problemi. Nessuno parla ai bambini e penso che sia veramente importante che si capisca che bisogna parlare con loro, perché penso che sia la parte di società che viene più esclusa e che dovremmo invece includere. So che nella sua vita ha sofferto molto. Pensa che la sofferenza sia importante per esprimere l'arte? I don't think suffering is by definition important to express art. Non penso che soffrire sia per definizione importante per capire l'arte, perché ci sono molti modi di esprimere l'arte, ma penso che soffrire sia importante per capire tutti nella società. Se non sei mai stato povero, non capisci i poveri. Ho vissuto negli strati più bassi della società e ora che sono un'artista affermata nei più alti e posso capire tutti e connettere tutti, che è importante per il mio lavoro, cioè mandare messaggi sociali. In altre sue opere ha rappresentato l'amore. Pensa che l'amore sia un altro modo per crescere? Penso sia importante capire che, anche se molte cose brutte accadono alle persone, c'è sempre una buona lezione o una lezione motivazionale da imparare. Una parte bella o buona che non bisogna ignorare, perché nei momenti bui e difficili ci sono anche i momenti più belli. Dove esprimi l'amore di più è l'ospedale. Quindi prendo ispirazione alle persone in momenti difficili, perché dove le parti più belle e le motivazioni migliori vengono fuori. Il suo stile è molto classico, sembrano opere del neoclassicismo. È stata ispirata dalla cultura e da artisti italiani? Yes, I was taken by my parents as a child. Sì, sono stata portata ai miei quando ero bambina a vedere arte classica, come Caravaggio e Bernini. Sono cresciuta con loro e penso che mi abbiano ispirata a livello inconscio più tardi nella mia vita. Mi sono scoperta poi anche ossessionata dalla metodologia greca perché è meravigliosa e profonda nel messaggio, nei movimenti e nella struttura. Greek mythology because it's just beautiful and deep, the messages, the movements, the structure, it's yes. Nelle sue opere solitamente usa due tonalità, non ci sono molti colori. I was born like this. I always liked black and white. Also, sono nata così, mi sono sempre piaciuti il bianco e il nero anche da piccola. Penso che siano perfetti per esprimere le modalità anche in maniera più dark. Penso che il colore distragga dalla vera emozione. Se vuoi davvero rappresentare un messaggio o un'emozione, meglio farlo in bianco e nero che a colori. I graffiti inizialmente erano associati alla musica hip hop e rap. Che musica ascolta? I came from graffiti, so I started graffiti when I was 15 and I listened to hip hop and drum and bass. Vengo dalla scena della street art, ho iniziato a 15 anni. Ascoltavo l'hip hop e il drum and bass che è stato molto popolare nella scena dei graffiti austriaca per molti anni. Ascolto ancora drum and bass mentre non così spesso hip hop, ma 14 anni dopo la ragazza è cresciuta, sono una persona diversa, quindi ho spazio a musica diversa. Music is coming in.